si vesto in nero e non è un caso e non sopporto i Dorian Gray. Ti ami così tanto che non hai più amore. Ti ami così tanto che non hai più amore. Ti ami così tanto. Giorno penso ribelle e dura di notte esco mi nutro di rock lunatica un po' diffidente uragano seducente come arabe felici colleziono cicatrici. Ti ami così tanto che non hai più amore. Ti ami così tanto che non hai più amore. Ti ami così tanto.